Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari ed Antonio Ceccato. Un cordiale saluto e buonasera da parte di Antonio e di Gesi, che è qui con noi in spirito, nel senso che per par condicio abbiamo dovuto lasciarle un attimo di respiro. Allora, un saluto cordiale alle nostre amiche e ai nostri amici su Blu Radio Veneto, le frequenze FM 88 e 70, 94 e 60, e ai nostri amici più tecnologici che ci seguono via internet su www.bluradioveneto.it. Naturalmente troverete il podcast di tutte le trasmissioni precedenti, oltre che di quelle correnti. E naturalmente diamo un saluto al nostro ospite che è qui con noi in carne ed ossa. Il nostro ospite è un poeta noto alla stragrande maggioranza dei nostri ascoltatori, il noto poeta in vernacolo e in lingua, Emilio Gallina. Buonasera Emilio e benvenuto, e anzi bentornato. Ringrazio Antonio della presentazione e lo saluto, e assieme a lui saluto per seconda la Gesi, saluto Eddie e saluto tutti gli ascoltatori di Blu Radio Veneto, e colgo l'occasione per ringraziare dell'invito sia Blu Radio Veneto, la Gesi e Antonio che è qua con me, e perché ritornare qui a Blu Radio Veneto è sempre una bella cosa, perché ci si trova tra amici e si parla di cose trevigiane e venete, di poesia e anche di argomenti di varia umanità che tanto interesse suscitano nei radioascoltatori, e fare memoria importante specialmente di questi giorni. Ecco, prima di entrare nel vivo della trasmissione volevo così fare un memento, e volevo ricordare un personaggio straordinario che è mancato di recente, un poeta, uno scrittore, un uomo di altissimo talento che è il professor Enzo De Mattè. Una figura di spicco. Ecco, così avevo proposto a Gesi di dedicare a lui una trasmissione, ma questo si vedrà. E quest'anno è stato un anno, cioè l'anno scorso è stato un anno un po' particolare per me, un anno di grazia che nonostante tutto ha visto tre bei fausti, si dice, avvenimenti, nonché eventi, vale a dire i miei primi 80 anni, i nostri 50 anni di matrimonio e la nascita del settimo nipote. E qui mi permetto di interromperti, perché naturalmente non abbiamo tralasciato, ma abbiamo lasciato per ultima la nostra amica Katie. Ah, grazie. La signora. Grazie, che adesso salutiamo effettivamente. Naturalmente. Infatti dicevo nonostante tutto, perché purtroppo, come l'anno scorso, a una certa data, è stata ricoverata, in condizioni estreme, per problemi piuttosto pesanti. E poi grazie all'assidua assistenza degli amici dell'ADVAR, sia del personale medico che infermieristico, si è verificato, a mio modo di vedere, un primo miracolo, cioè la lenta ripresa accompagnata ora per ora dall'amore dei figli, dalle nuore e dalla vicinanza di tanti amici ai quali devo molta riconoscenza e li ringrazio ancora di cuore. Poi, secondo me, un altro secondo miracolo che ha richiamato, direi, alla vita quasi normale di mia moglie è stata la celebrazione del 50° anniversario, con la sorpresa che ci hanno fatto i nostri figli, e poi la nascita del settimo nipote, come dicevo. Una ricchezza. Tutto questo lentamente l'ha rimessa un po' in sesto, e anche se con un po' di fatica si va avanti giorno per giorno. Questo, chiedo scusa di questa lunga introduzione, e veniamo a noi. Il dono dei figli è nato giorno per giorno, anche questo, con la nascita, l'annuncio e la nascita dei vari nipoti, e avevo fatto una prima stampa di una plaquette di alcune poesie nel 2008. Poi, siccome i nipoti sono cresciuti e di numero e di età, e via via sono nate queste poesie. È stata fatta una scelta che io spero possa piacere, e la sentirete. E con questa raccolta definitiva, Il dono dei figli, siccome è diventata quasi una cinquantina, anzi di più, di poesie, ho voluto fare un regalo alla moglie e ai figli e ai nipoti con la stampa di questo volumetto. E andiamo a iniziare. Il dono dei figli, allora introduciamo questa... Introdotta da alcune liriche riguardanti l'antefatto, è questa una raccolta di semplici versi dedicata ai figli dei miei figli, scaturita dal condividere con loro eventi di vita in un succedersi di intense emozioni, vissute con trepidazione e gioia giorno per giorno, momento per momento, tra lieti annunci e trepidanti attese di nascite e altre realtà gioite nel succedersi degli anni. Dal primo gattonare ai primi traballanti passettini, dalle prime paroline ai primi giorni di scuola e ad altri intensi momenti di vita vissuti con loro. Una serie di eventi e ritratti di gioia bambina protesa al domani. Nonno Emilio. Grazie Antonio. E come introduzione volevo, siccome il volume si combina in due parti, cioè una piccolissima parte di poesie dedicate a me e a mia moglie e ai figli, e poi a quella dei nipoti. E inizio con Quattro Aquiloni e poi darò l'incarico a Antonio di leggere qualcos'altro. Bellissimo. Che poi spiegherò. Quattro Aquiloni. Quattro aquiloni nel nostro cielo di nubi e di azzurro, sicuri nell'onda del vento, ciascuno il colore più intenso. Non scivolate d'ala o cadute improvvise, se non rare incertezze. Saldi figli alle mani nostre a correggere rotte e mantenere quote. Quello rosa tratto tratto a incerto andare e brevi scarti. Un colpo di filo a correggere precari equilibri e a far riprendere stabile quota. Quattro stupendi aquiloni alti nel nostro cielo della nostra vita. Figli. Ah, intense adesso, come sempre. Grazie. Pregherei Antonio di leggere questa poesia che è fuori concorso, fuori libretto, che la nipote Anna, la piccola ladra più vecchia, ha dedicato in occasione dell'anniversario di matrimonio a noi. I nonni. I nonni sono come le stelle. Ci sono sempre. Sono un punto di riferimento anche per un piccolo suggerimento. Sono delle persone da ammirare. Sono come un tesoro, qualcosa di speciale. Sono infinite le mie parole per descrivere i nonni, ma le quattro parole che mettono tutto insieme sono: i nonni sono speciali. Anna Gallina, per i 50 anni di matrimonio dei nonni, 27 giugno 2014. È sempre straordinaria. E allora adesso naturalmente andiamo con il primo intermezzo musicale, che è I Vecchi di Claudio Baglioni. Sulle panchine dei giardini succhiano fili d'aria, un vento di ricordi, il segno del cappello sulle teste da pulcini. I vecchi mezzi ciechi, i vecchi mezzi sordi, i vecchi che si adannano alle bocce, mattine lucide di festa che si può dormire. occhiali per vederci da vicino, a misurar le gocce per una malattia difficile da dire. Vecchi, tosse secca, che non dormono di notte, seduti in pizza o letto a riposare la stanchezza, si mangiano i sospiri e un po' di mele cotte. I vecchi senza un corpo, i vecchi senza una carezza, i vecchi un po' contadini che nel cielo sperano, temono il cielo, voci bruciate dal fumo e dai grappini di un'osteria. I vecchi, vecchi e canaglie, sempre pieni di sputi e consigli, i vecchi senza più figli e questi figli che non chiamano mai. I vecchi che portano il mangiare per i gatti e come i gatti frugano tra i rifiuti, le ossa piene di rumori e smorfi e versi un po' da matti. I vecchi che non sono mai cresciuti, i vecchi anima bianca di calce in controluce, occhi anacquati dalla pioggia della vita. I vecchi soli come i pali della luce, e dover vivere fino alla morte che fatica. I vecchi cuori di pezza, un vecchio cane e una pena al guinzaglio, confusi inciampano di tenerezza e brontolando se ne vanno via. I vecchi invecchiano piano con una piccola busta della spesa, quelli che tornano in chiesa lasciano fuori bestemmie e fanno pace con Dio. I vecchi povere stelle, i vecchi povere fatte sbottonate, guance raspose arrossate di mal di cuore e di nostalgia. I vecchi sempre tra i piedi, chiusi in cucina se viene qualcuno, i vecchi che non li vuole nessuno, i vecchi da buttare via. Entriamo in studio con il nostro ospite, al quale lasciamo la parola. Sì, Antonio, grazie. Ecco, direi di dar lettura a questa poesia che ho scritto per la Sonia, la mia prima nuora, ma la dedico a tutte e tre le nuore che sono straordinarie, perché tutte e tre hanno passato il momento della maternità, ed è intitolata Madre. Radiosa quel giorno nel tuo sì, il fiat, il tuo essere dono, nello scorrere nuovo di giorni, il tuo porti in quotidiani gesti d'amore, l'annuncio gioia del concepimento, la vita nuova che in te cresce impaziente, la pressione ansia dell'attesa lungo il dipanarsi lento di ore e di giorni pazienti, lo strazio del grembo dischiusa la tua creatura, il tuo essere madre. Ed ecco realtà di gioia dolore perpetuarsi nel fluire di lunghe ore di attesa, trepide ore di ansia e brevi ore di gioia. Per un figlio, tutta la vita madre. 2 gennaio 2000. Ok, come posso dire, una chiosa. Antonio sì. Leggerà Piccola ladra. Piccola ladra. È ecco. La prima che mi è nata come nipote e anche come poesia, effettivamente. Ecco. È un'introduzione, ed diciamo. La prima nipotina, la prima nipotina Anna. Perfetto. L'ho intitolata Piccola, piccola ladra. Ladra alla nipotina Anna. Ti basta un sorriso, una moina, per scassinare questo vecchio cuore, piccola ladra, e quel tuo suadente chiamar nono è chiave per aprire e cuore e braccia per stringerti forte al petto e coprirti di baci, piccolo, trotterellante, biondo bijou. Invento per te giochi e incantesimi, più che clown al circo. Scoppi in piccole grida e risa argentine e batter di mani festose. Ncola, nonno, ncola! E mi fai bimbo per condividere con te magie di giochi, di gesti e balbettio di parole per la tua gioia. Ladra di baci, vogliosa di carezze, è bello vederti sazia di giochi, abbandonata al sonno. Novembre 2001. È sempre la leggo e anche l'ascolto da chi la legge con molta commozione. Le annunciazioni, ho intitolato Annunciazioni, questa l'ho scritta nella Pasqua del 2002 e racchiude un po' le sette annunciazioni. Queste sono due nello stesso giorno, di Pasqua. Annunciazioni. In questo lieto giorno di resurrezione, non dall'angelo gli annunci, ma da occhi di gioia e voci di commozione. Le vostre, figli. Avremo un bimbo, sarà per ottobre, lieto annuncio di Martina e Alberto. Anche noi, sarà per novembre, quello di Monica e Gianfranco. Gioia grande all'inatteso, duplice annuncio. Saranno giorni di trepide attese insieme, figli. Abbinato addirittura. Antonio, do l'incarico di leggere la poesia che ho dedicato a Agnese. E... Agnese è la, la seconda nipote. La seconda, quindi ancora diciamo all'inizio proprio. Sì, all'inizio, queste sono le prime. Sì. Agnese, è nata Agnese, il tuo semplice annuncio. Figlio, stupore, commozione e gioia tracimare dai bordi del cuore, incontenibile. E tu, madre, nonna, la voce tarda a venire, chiedere il come, il quando, benefiche lacrime a brindare gioioso evento. Lunedì 21 ottobre 2002. E un altro evento, e questo è il terzo nipote, che è Sebastiano. È andato in nomi, dei nomi molto tradizionali, molto belli, sì. Non strambi come si usa anche adesso. Sono nomi un po' particolari. A proposito, un piccolo aneddoto. Nella chiesa di Santa Bona ci sono le statue di Agnese e di Sebastiano. Ah. Guarda quindi un po'. Non sì. Ricercato parallelo, diciamo. Chi e lo quando sa. Il figlio mi ha detto si chiamerà Sebastiano, è venuto un po' da ridere. Io sono andato a quelle due statue che si portavano in processione un tempo. Forte. E Sebastiano, un trillo insistente a rompere ansie di attesa. La tua voce, figlio, rassicurante. È nato Sebastiano, tutto bene? Martina è stata brava. È piccolino, ha tanti capelli. Bene, proprio bene. E tu, madre, nonna per la terza volta, con voce di commozione a chiedere il come, il quando, proprio nel giorno di Santa Cecilia, sarà musicista. Liberatore, l'abbraccio del tuo sposo nonno e gli occhi perduti negli occhi, gioire. Venerdì 22 novembre 2002, Santa Cecilia. E un'altra che ho dedicato a Anna, e fiore nel prato di fiori. Era una giornata stupenda d'estate, che era il mese di giugno, e c'era questa piccoletta nel giardino che coglieva questi fiori. Ed è nata così, perché sono quei momenti straordinari che se non li fermi... Al momento, esattamente, sì, proprio sì. L'attimo fuggente. Fiore nel prato di fiori. La piccola Anna ha piene le mani di tenere margheritine e capolini di tarassaco, ed è di sole nel sole, ed è gioiosa gioia nel verde del prato. l'incontenibile, incomprensibile dire a musicalità di allodola e di garrula rondine. Stupisce. La piccola Anna, intenta a quei fiori, è bocciolo nel prato di giorni. Fiorirà bellissimo nel tempo suo di donna. Mese di giugno 2002. E allora adesso possiamo passare al secondo brano musicale, che è un brano di una cantante americana che si chiama I Turn to You. When I'm lost in the rain, in your eyes I know I'll find the light to light my way. When I'm scared, losing ground, when my world is going crazy, you can turn it on. Siamo di nuovo in studio con il nostro amico Emilio, grande poeta. Sì, grazie, un metro 80 scarso perché mi sto scurtando. E riprendiamo con la serie. Questa poesia è nata dalle situazioni molto particolari. Siccome per fortuna li abbiamo avuti i nipoti presenti, li abbiamo goduti, e questa, fermato un momento particolare, della piccolina Agnese, che seguiva la nonna in casa, sempre molto curiosa, cominciava i primi passettini, certamente, il momento. Io da laggiù, che ci siamo divisi, il regno di Chetti è i piani superiori, e i piani inferiori c'è la taverna o ex ufficio, mia moglie dice il to, non posso dire, confusione, il mio regno, regno di diciamo, confusione, ecco. Giù. Allora da giù mi coglievo gli stessi discorsi tra nonna e la piccola Agnese, e così è venuto di getto queste quattro righe, e pareva proprio il cicalio, no? Il tuo chioccio dire, sembrava proprio il pulcino dietro la chioccia. Infatti ho immaginato la nonna, mamma, nonna chioccia. Il tuo chioccio dire. Seduto tra carte e versi, ascolto divertito il tuo chioccio dire, piccola Agnese. Piccolo pulcino a seguitare nonna chioccia con scalpiccio di piccoli passi. Infinito tintennio di perché è il tuo dire. Rivo argentino di breve ruscello montano. E fai, nonna Caterina, perché fai? Seguire i vostri dialoghi, bambini, mi sorride il cuore, e aspetto l'atteso, nonno Emilio, e sei? L'abbraccio più tenero è la risposta. Questo era il 12 maggio 2005. E invece, davanti al presepe è sempre l'Agnese, non che sia privilegiata, ma perché sono momenti molto forti, anche perché diventa attuale, cioè attuale, è stato attuale e sarà attuale ogni Natale il presepe, perché tanto discusso, tanto snobbato, tanto sacrificato, che invece è una cosa della nostra tradizione che dovrebbe essere continuata, incentivata soprattutto anche nelle scuole. Io credo che dovrebbe essere spiegato lo spirito in modo corretto. Sì, ma sono molti insegnanti che non lo fanno per paura di offendere quelli della nonna. Diciamo che la propria identità e compagnia non offende alcuno. Ma insomma, evidentemente, anche perché è l'identità di chi è radicato, evidentemente. Si tratta di spiegare, di far partecipi anche gli altri che non sono della nostra religione. Questo segno di fede. Non di divisione, ma di inclusione. Ma la mia, invece, ho anche scritto il giornale, ricordo, la mia preoccupazione invece è un'altra, che chi boicotta, non vuole questa realtà, è perché ha paura di confrontarsi con il soprannaturale. In genere questo è il motivo, non c'è altro, certo, è un problema, certo, di fede mancata. Tanto. Questo sì, è purtroppo. Vai. È un argomento molto spinoso e delicato. Allora, davanti al presepe, alla nipotina Agnese, non posso dimenticare il tuo grido di meraviglia bambina e il tuo batter di manine dinanzi al presepe fatto di poche cose, piccola Agnese, e il toccare con le tue piccole dita pecorelle, agnelli, pastori. Al tuo tocco curioso tutto cadeva, tra il tuo divertito ridere e i tuoi infantili «Perché, nonno? Perché? Che è questo? E quello? Che è?» Non posso dimenticare, piccola Agnese, l'incanto di tanto momento e il tuo continuo prendermi per mano per portarmi davanti a quel segno di fede e tradizione che sempre mi ha colmato di meraviglia il cuore. Rivivo con te il gioioso stupore dei miei presepi bambini. E in effetti, ancora adesso, ormai sono grandi, perché Agnese fa 12 anni, la Anna 14, quindi è già, cominciano a essere degli adolescenti, però vedo che sentono l'imprinting questo, lo sentono, che è stato dato, sentono, insomma, sì, certo. È stato, sì. E un'altra poesia, qua c'erano tre nipoti, uno in fila l'altro, ma ce li dividiamo. Questa l'ho dedicata a Giacomo, altro nome classico, sì. Il terzo dei nipoti, e il quarto, pardon, perché sto perdendo il conto. Perdendo il conto. E lo ricordo che era così, anche lui traballante nei passi, come succede a tutti i bambini di piccolissima età. Era straordinario vederlo con questo caschetto biondo, no? Questo caschetto, e sono quei momenti che fermi, perché effettivamente, perlomeno mi è capitato così, e gli ho dedicato questa poesia. Giacomo il piccolino, capelli biondi a caschetto, suoi occhi e sorriso luminosi, va traballando su gambe grassocce. Giacomo il piccolino, candido, pudico bambino, con flebile voce e gesti decisi, indica ciò che vuole. Bocca pronta al cibo e al sorriso, voglioso di carezze e baci, tra le braccia nido di mamma e papà. Giorno dopo giorno cammina sereno verso il domani. È novembre 2006. E a Giacomo do l'incarico di leggere un furetto di nome Giulio. Anche Giulio. Questo è il, certo, il quinto nipote. E qui occorre tenere di conto del quadro storiere. Sì, diciamo, beh, sì. Anche questo è un furetto. Diremo così, un furetto è sempre la prima età, verso i due anni, grosso modo, sì. E sì? È il più serio della compagnia, Giulio posato, effettivamente, diciamo. Sì. Adesso, per dire, a 3-4 anni il regalo che ha chiesto, ed è una cosa straordinaria, voleva un libro sui fossili. Ah, una roba! mi lascia di stucco. No, è vero. E sarà scienziato, senz'altro. Naturalmente. Allora, un furetto di nome Giulio. È ancora un cucciolo d'uomo il piccolo Giulio, serio il visetto, cipiglio severo, parla con gli occhi attenti e curiosi, traballa sui piccoli piedi, si sente sicuro e gattona veloce a toccare ogni cosa. È un furetto affamato, goloso di tutto, pronta la bocca al cucchiaio. È bello vederlo crescere. A giorni sarà sicuro nel passo e il suo chiasso si unirà a quello di Anna, Sebastiano ed Agnese, la sorellina. In mille giochi bambini e noi nonni a perderci con loro. 15 agosto 2005, festa dell'Assunta. Sì, e la terza, perché questa è una femmina, la quinta. Sesta nipote, perché perdo i contatti quasi, è Caterina. La sesta nipote è Caterina, effettivamente. E è stata anche questa un po' imprevista, perché questa è la figlia di Paolo, il più vecchio dei miei. E era nata Anna, e dopo, mi pare, una 8 anni, improvvisamente, dopo tanti, purtroppo, troppi aborti normali, diremo così, è nata Caterina. Ed è stata un po' una sorpresa per noi, perché ormai non si aspettava più. E ricordo la prima foto che mi ha mandato mio figlio, ancora in ospedale, infatti ho dedicato la prima foto, ma non si può leggere tutto perché non c'è il tempo. E la ricordo ancora, sta creaturina, ancora nel telo verde, la tutta accovacciata, che stava ancora succhiando già il ditino. Poi è cresciuta, a lei ho dedicato alcune cose che sarebbe bello leggere, ma vedremo se c'è tempo. E quando veniva per casa, anche lei, era tremenda, effettivamente, curiosava dappertutto, toccava dappertutto, e così l'ho chiamata Babau. Il nostro dialetto è un puteoso, un babau, è proprio molto vivace. Okay. Ed è, come dire, lei ha gradito sto chiamar così, anche se gli ho dato un sacco di altri nomi, tra cui Trappolina e via discorrendo. E le ho dedicato questa, Babau. Mi piace, Babau, piccola Caterina, la benvenuta. Sta proprio bene a te, paffuto folletto, per quel tuo gattonare rapido e deciso, per la frenetica curiosità che ti coglie sempre, per quel ciac-ciac di manine e quel frufru di ginocchia sul pavimento. ti sta bene, per Babau, per quel toccare ogni cosa. Guardinga attende la voce della nonna e dei suoi. No, non si tocca, Babau. Babau, suona bene al labbro nostro, e ti piace. A quel richiamo ti fermi, in quel buffo accovacciarti, lo sguardo attento, luminoso, come il sorriso che colora di gioia il tuo piccolo viso. Ciao, Babau, a presto, i primi traballanti passettini. 23 settembre 2009. Antonio, invece darò un incarico, facciamo un salto adesso, perché ormai sono cresciuti, sono andati a scuola e quindi siamo andati più volte a accompagnarli, o a prenderli o a accompagnarli. Mm-hmm. E mi sono rimasti impressi, Antonio, sti zaini. Sti zaini stracolmi pesanti, una roba folle, sì. Una roba folle. E li ho visti così curvino quando uscivano, che mi pare alpini, mi pare di piccoli alpini che vanno al campo estivo a fare. Ok, allora concludiamo questa tranche con come piccoli alpini. Sì. Vi vedo, nipoti, uscire da scuola con i vostri compagni di classe, curvi sotto il peso dello zaino come piccoli alpini in marcia. A frotte uscite incontro alle mamme, ai papà o ai nonni in attesa, arrancando, sbuffando sotto il greve peso di tanto sapere, chiassosi come giovani reclute in libera uscita. Nello zaino che quasi vi schiaccia, astucci mostruosi con pennarelli e colori, biro svariate, gomme, righelli, quadernoni a righe e quadretti, libri diversi per varie materie, belli illustrati, il diario. Mi sorride la vecchia cartella di cartone pressato del mio tempo di scuola con l'essenziale corredo, l'astuccio di legno con portapenne e matita, un quaderno a righe e uno a quadretti, il libro di lettura, il sussidiario, nient'altro. E sempre subito, spesso sofferto, il tempo di scuola di allora e di adesso, rubato ai giochi e monellerie bambine, nipoti, come piccoli alpini, grevi zaini in spalla, andate sereni, incontro al sapere. Anno scolastico 2010-2011. Effettivamente. E allora adesso passiamo al prossimo intermezzo musicale, che è Poesia di Riccardo Cocciante. Ci sia, poi li incontri per caso, fra le mani di un bimbo, perché lui cammina cantando, ride, gioca coi sassi, sogna che può volare, e tutto questo è. Ci sia, poi ti prende la mano e ti porta lontano con lei. E non sei più il bambino che giocava coi sassi, scopri di essere un uomo e tutto questo è. Thank you. poesia, poesia, sembra che non ci sia. Poi la senti una notte, mentre piangi nel buio per te. Le dovresti parlare, ma non sai cosa dire. È finito l'amore, anche questo è poesia. Ed eccoci di nuovo in studio per un'altra trash di emozioni, sentimenti e ricordi con il nostro certo, amico Emilio. Certo, certo. Visto che si parlava di scuola, no? Tra questi piccoli alpini, e c'è anche la faccenda delle pagelle, effettivamente, no? E sono arrivati Sebastiano e Giacomo, sono venuti un giorno e ha detto: nonno, ti abbiamo portato le pagelle. Vuoi vedere? Che discorsi, senz'altro voglio vederle. Assolutamente. E infatti ricordo sopra la tavola queste due cartelline azzurre, no? E ora le ho aperte, ho visto i voti e cavolo ragazzi, hai dei fenomeni sti qua. E allora mi è venuto in mente le mie pagelle, perché effettivamente... anche perché loro vigliacchissimi mi hanno messo un po' in difficoltà, no? Adesso mi è venuta sti versi e infatti io l'ho intitolata Pagelle. Pagelle. Nonno, nonno, le nostre pagelle, annunciano gioiose le voci di Giacomo e Sebi, che sarebbe Sebastiano. Mm-hmm. Vuoi vederle? Sul tavolo due cartelline azzurre in attesa. Le prendo, le apro, scorro attento le varie materie, in buona scrittura gli ottimi voti dei vari trimestri, il giudizio finale promossi, spontaneo, un bravi, proprio, proprio bravi, mi sale affettuoso dal cuore. E le tue, nonno, com'erano le tue pagelle? La voce di Sebi incalza insistente. Sorrido. Sì, sì, belle, belle, certo. Un po' diverse dalle vostre. E i voti? Com'erano i voti? Insiste curiosa la voce. I voti? Non male, ma non alti come i vostri, rispondo. E la mente si perde nel tempo. Rivedo le mie vecchie pagelle con simboli e motti dell'era fascista. In bella scrittura, i voti mediocri, ma ugualmente promosso. Stringendoli al petto, un commosso commento di lode chiude il raffronto. Non ho la data, ma è ad essere stato l'anno scolastico di 3 anni fa. Mm-hmm. E a Antonio invece do un altro incarico, perché con la scuola ho cominciato anche a fare lo sport. E tra questi Giacomo è cominciato ad andare a giocare a rugby. Ah, ecco la... E siccome non era capace di dire ecco l'arcano di questo rugby o rugby, come diavolo si dirà, diceva Rebic. Adesso capisco. E allora... la ratio di questo tipo. Ed era, aveva la grinta, l'ho visto più volte, no? Era piccolino, giocava, non so se erano i pulcini o le promesse, quello non... Mm-hmm. E effettivamente mia cognata mi ha mandato un filmato dove si vede sto ragazzino scatenato che corre, no? E allora ho fermato così questo momento. Allora, Rebic, ovvero Giacomo, il numero 21. Numero 21 su sfondo rosso, calzoncini bianchi, scritta Tarvisium sul petto e grinta da campione nel corso dell'azione. Scorrono vivaci in rapida sequenza i fotogrammi della partita della Under 8 invitta. Stretto l'ovale al petto, il numero 21, braccio teso a difesa, occhio e slancio puntati alla meta, vive l'ennesima azione sul rettangolo verde del prato, inondato di sole. Capelli al vento, il numero 21 va, sfugge a mani e braccia protese al placcaggio. Un ultimo guizzo, un tuffo e io nonno a urlare in silenzio. Meta! 16 novembre 2011. In effetti, questa è stata un po' l'emozione. Grande, decisamente. Sì. E ci sarebbe anche Sebastiano, invece Sebastiano giocava il calcio. E casomai se c'è tempo dopo, vediamo se è il centrocampista. Mentre gli altri nipoti, Giulio, sarebbe anche tutto il discorso degli scout da mettere dentro. E qualcuno fa il chierichetto, ti dico, sono tutti i momenti che sono stati fermati. Un'altra suona, perché la scuola media, l'Agnese, fa parte della sezione musicale e ha fatto il primo concerto. Comunque, andando per tempo, ho dedicato questi versi sempre alla Babau Caterina, diciamo così. E è cresciuta logicamente e è andata in prima elementare. Dopo ho fatto l'asilo, effettivamente è emozionata, ricordo che è andata alla scuola. E infatti la foto che mi ha mandato Paolo con sta ragazzina col suo bel grembiule bianco mi ha fatto nascere questi versi. Primetta alla scolare a Caterina. Nel bianco grembiule, lo zaino in spalla, quello di Londra amavi dire orgogliosa. Il visetto gioioso tra i riccioli al vento, lo sguardo sereno di chi ha il cuore contento. Così mi appare il computer nella splendida foto allegata alla mail. Ti guardo commosso, Babau Caterina. Ti rivedo nella tua prima foto, avvolta nell'assettico telo, in braccio alla mamma, il litino alla bocca intenta a succhiare. E poi, piccina, gattonare veloce, i primi passi, il fare deciso, l'aria alquanto monella. Sei sempre più grande, simpatica e bella. Primetta, ha scritto papà nella mail. E gioia vederti cresciuta, pronta a iniziare la scuola per apprendere nel tempo l'ABC del sapere. Lunedì 8 settembre 2014. Quindi siamo arrivati a tempi molto recenti. Sì, siamo quasi alla fine di questo excursus. E qui salta fuori il settimo nipote. Il settimo. Accidenti. E era un po' che il discorso era nell'aria. Questo è praticamente il terzo figlio di Alberto, il terzo dei maschi. Erano due, due e due. Gianfranco aveva un maschio e una femmina, cioè Agnese e Giulio. Paolo aveva due femmine, cioè Anna e Caterina, e Alberto aveva invece due maschi, che erano Giacomo e Sebastiano. E a un certo punto a sfalsare il discorso è venuto Francesco, effettivamente. Benvenuto Francesco, quindi. Prego. Inatteso un SMS. Martina è in ospedale per un controllo. Poi a breve un altro, e un altro ancora a rassicurare. Nulla di nuovo ancora. 21 e 28. Squilla il telefono. Commossa la tua voce, Alberto, ad annunciare. È nato Francesco, è piccolino. Tutto bene. Martina è stata grande. L'atteso annuncio scioglie frenesia di attese. Commozione e gioia colma i nostri cuori di nonni e grato un pensiero all'Altissimo per questo settimo dono. Un ideale abbraccio corre lungo il filo e ci unisce alla vostra gioia, figlio. Ti vedremo presto, piccolo Francesco, e sarà gioiosamente bello poterti tenere tra le braccia. Mercoledì 20 agosto 2014. E la storia continua, perché anche Francesco cresce e ci ha colpito che la nostra attenzione è più su lui, che è piccolino, che non che gli altri vengano meno, ma hanno anche altri interessi adesso, perché l'Anna è in prima superiore, gli altri sono in seconda media e in quinta elementare gli altri. Era appena ieri il tuo sbocciare alla vita, piccolo Francesco. Nella culla ovetto che accoglie i tuoi sogni ti guardiamo commossi mentre dormi sereno. Tratto tratto sorridi, sospiri, ti giri, sbadigli, chissà cosa sogni. I tuoi neri capelli, le guance paffute, la destra accosta al piccolo viso, ti danno un'aria pensosa, un'aria da grande. Sei così buffo, Francesco, che ti prenderemmo tra le braccia per coprirti di baci e carezze. Al risveglio ci piace seguire il tuo stirarti, i mille gesti che fai, vedere la luce degli occhi scrutare d'intorno, reclamando con pianto deciso il seno di mamma Martina che generosa ti porge. Già 2 mesi, ed era appena ieri, 20 ottobre 2014. Adesso ci fermiamo per l'ultima, diciamo, l'ultimo intervallo musicale della nostra serata, che è Luce tramonti a nord-est di Elisa. Dell'intervento con il nostro amico Emilio. Sì, direi che il tempo è volato effettivamente. Molto, molto, molto velocemente. E quindi c'era un sacco di altre cose da leggere, ma tiriamo le cuoie. Diciamo che per la prossima volta. La prossima volta, sì. Ecco, chiude la raccolta, appunto il dono dei figli, proprio con il dono dei figli, che riassume un po' quello che può essere la realtà di questi bimbetti, che effettivamente ci sono stati preziosi, perché siamo cresciuti con i figli e invecchiamo gioiosamente con loro, con i nostri nipoti. In effetti è il dono dei figli, perché i figli ci hanno fatto questi doni effettivamente. Il dono dei figli. Ieri il nostro cielo si è acceso di sole, di luna, di stelle, e i nomi sono Anna, Agnese, Sebastiano, Giulio, Giacomo, Caterina, Francesco Piccolino, gemme primaverili e fiori bellissimi nel nostro prato di vita. Con voi abbiamo vissuto cesti di giorni colmi di gioia bambina, di primi balbettii, di prime traballanti passettini, di risa argentine, di giochi, di petulanti perché, e giorni d'asilo e di scuola. Oggi, nel nostro mite tempo autunnale, si cammina con voi lungo l'andare di giorni e stagioni, condividendo irripetibili esperienze di vita. Festa dell'Assunta dell'agosto 2013 e mercoledì 20 agosto 2014, perché l'ho ripresa. Ecco qua. E su insistenza di Antonio, perché io non l'avrei letta, perché no, a parte mi sarei ingruppato. No, ha voluto, vuole leggere, io lo ringrazio di questo. Se ricordate all'inizio della trasmissione accennavo alle difficoltà, all'esperienza di dolore di mia moglie e di tutti noi. E allora ricordo che ho fermato questa sensazione, questo sentimento di profonda sofferenza con questi versi che adesso Antonio che sono il nostro saluto, il nostro abbraccio all'amica Katie. Il tuo volto di sofferenza mi attanaglia il cuore, amore, e l'animo trema impotente. Vorrei essere per te rimedio efficace al tuo patire e farmaco per giorni di domestica serenità, dove il tuo sorriso sia, come sempre, dono di te bellissimo. È debole la fede, infantile il mio chiedere, e forte la tentazione della ribellione al silenzio di Dio, che la mia miserevole umanità pretende essere pronto all'altro capo del telefono. Ho giorni d'ansia e timore per il tuo sofferto vivere e per non saper lenire i tuoi giorni di greve calvario. Non sono che un cireneo che con te porta la croce e cammina al tuo fianco giorno per giorno, fino a quando ci sarà dato. Non servono altre parole, credo. Sì. E noi ringraziamo l'amico Emilio, naturalmente un saluto di nuovo all'amica Katie, e non ci resta che ringraziare, diciamo, i nostri ascoltatori, ringraziare Emilio naturalmente per questa ulteriore, diciamo, serata di emozioni, sentimenti e ricordi. Ma io ringrazio te Antonio, che così molto molto come dire, professionalmente hai reso possibile questa serata. Approfitto per mandare un saluto a tutti gli ascoltatori della nostra amica Jessy. Stavo per arrivare alla Jessy, che si è persa ma potrà recuperare in podcast. E quindi ti ringrazio ancora e ringrazio Eddie. Ringrazio l'emittente Blu Radio Veneto per questa ospitalità. Mi auguro che questa, diremo così, testimonianza fatta un po' con apprensione, perché pensavo potesse interessare, ma ho visto che la Jessy ha detto senz'altro e la dobbiamo fare, e l'abbiamo fatta, spero, bene. Esatto, ringrazio bene. Tutti. E ringrazio, e alla prossima volta a tutti voi. Grazie. Avete ascoltato? Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre.